nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentrovati, bentornati nella grande famiglia di Nessuna è Perfetta, il programma che da 5 anni parla alle donne, ma non solo a loro, di lavoro e di dimensione di vita. Parliamo e ascoltiamo, perché ascoltare è altrettanto importante, almeno per me, che appunto da 5 anni faccio un po' parte della vostra comunità. E per ascoltarvi però bisogna che voi ci facciate sentire come la pensate. Siete sempre di più a farlo. Io vi ricordo che potete chiamarci all'800 28 12 12, è il numero della nostra casella vocale. E siccome mi piace cominciare con voi e non con me, sentiamo subito alcuni dei messaggi che ci avete fatto arrivare sulla puntata della domenica scorsa. Maria Latella, buongiorno, mi chiamo Marco Martini, telefono da Firenze. No, niente, volevo parlare del discorso dello smart working da casa. Insomma, mia figlia si sta trovando benissimo, anche se un po' magari gli è aumentato il lavoro, perché c'è sempre i figli accanto, insomma, a disposizione. Per tanta gente il lavoro a casa diventerà una comodità, ecco, non da poco. Io purtroppo ormai sono in pensione, sicché non la vedo dall'esterno tutta la faccenda. Comunque avrà senz'altro un futuro. Allora Marco, sono convinta che tua figlia non sia la sola a essersi trovata molto bene a lavorare da casa, perché questo consente di bilanciare tante altre cose e appunto soprattutto per una mamma con figli magari piccoli consente anche di vivere una dimensione di lavoro e di famiglia senza quello stress che conosco bene per averlo sperimentato quando mia figlia era piccola, lo stress di dire sono al lavoro e penso a lei, sto con lei e penso al lavoro, che è una situazione davvero sgradevole. Ora, è vero che il lavoro da casa è una scoperta e che è importantissimo che venga implementata, che non ci si dimentichi una volta che si spera il coronavirus sia stato archiviato. Domenica scorsa, che era appunto la festa della mamma, noi abbiamo sottolineato il fatto che molte mamme sì, sono contente di rimanere a casa e potersi occupare del lavoro e dei figli, ma magari pensano che nella loro situazione non potrà durare a lungo, perché magari hanno lavori che richiedono la presenza fisica in un luogo. Pensiamo soltanto a chi lavora nei negozi, a chi lavora in esercizi commerciali, a chi appunto ha necessità di essere sul luogo. Ma con le scuole chiuse, situazione molto particolare, e che l'Italia condivide praticamente con un solo paese in Europa, cioè con la Spagna, con le scuole chiuse, dicevo, il peso di dire non torno al lavoro, che spesso significa anche non prendo più uno stipendio per qualche mese, bene, ricade sulle donne, ricade sulle mamme. E al Premier Conte sono arrivate molte sollecitazioni, anche quella che arriva dall'OCSE, secondo la quale le donne dovranno affrontare una quantità di costi personali e lavorativi dovuti alla pandemia in misura molto maggiore rispetto agli uomini. E però è bene ricordarlo ogni volta, noi qui a Nessuna è Perfetta lo stiamo facendo da settimane, ma è anche bene che i vostri messaggi ci facciano anche capire che c'è un altro aspetto: il lavoro da remoto può essere un'opportunità. L'importante è che non significhi far tornare le donne a casa. Lavoro da remoto può funzionare anche per gli uomini, non deve essere una scelta femminile. Un altro messaggio all'828 12 12, sempre relativo alla puntata che domenica scorsa si concentrava proprio su questo tema. Lavoro da remoto, fantastico, ma non deve essere un ghetto per donne. Ciao Maria, buongiorno. Io confesso di essere basita. Non solo noi donne pagheremo il prezzo più alto di questa crisi, lei e poche altre persone lo state evidenziando, ma mi sembra che ci sia un tentativo di minimizzare questo aspetto. Come se non bastasse, il nostro punto di vista per progettare i mesi a venire a quanto pare non interessa a nessuno. È mai possibile che sia necessario fare appelli per chiedere di essere coinvolte nelle squadre di lavoro del governo? Grazie per l'ascolto. È mai possibile fare appelli, la necessità di fare appelli per essere coinvolte nelle squadre di lavoro per dire ehi, ci siamo anche noi? È mai possibile che si debba arrivare a questo? Purtroppo sì. E questi appelli sono importantissimi perché segnalano che c'è una consapevolezza da parte della popolazione femminile del fatto che se taciamo si scordano di noi e questo non deve succedere. Ripeto, noi per quel che possiamo, nessuno è perfetta, ne parliamo quasi tutte le settimane, adesso questa settimana no, perché non vogliamo diventare monotematici, ma abbiamo un occhio e un orecchio molto attento e quello che ci ha detto la nostra ascoltatrice ce l'abbiamo ben presente. Dopodiché, per quanto riguarda il lavoro, considero lo smart working un punto importante, una svolta importante, così come abbiamo anche visto con l'ospite di domenica scorsa, l'amministratore delegato di ENGIE EPS, Guglielminotti, se viene valutato come un mezzo di velocizzazione anche del lavoro, di risparmio per l'azienda e un mezzo che aiuta il bilanciamento femminile, va benissimo, il bilanciamento familiare va benissimo, se è un ghetto per le donne, no. E allora, questa domenica parliamo di bellezza e ovviamente pensando al presente, al futuro, dopo mesi chiusi in casa, c'è proprio un bisogno fisico di rimettersi in forma, di guardarsi allo specchio con un occhio nuovo e quindi immagino che tante di voi, me compresa per esempio, abbiano iniziato una dieta detox. Io per qualche giorno mi sono alimentata con i vari succhi. Capisco che, come dire, sembra una cosa per qualche giorno, ci cioè dovresti farlo per settimane. No, io per settimane non ci riesco, però è un segnale che comunque ho lanciato al mio corpo per dire: bene, dopo 2 settimane, 2 mesi in cui con la scusa che c'era il lockdown, ti sei fatta fuori mezza tavoletta di cioccolata ogni sera, adesso il lockdown è finito, cerchiamo di rimetterci in carreggiata. In carreggiata significa anche occuparsi della propria pelle, perché la mancanza di luce e di sole hanno avuto degli effetti, e in generale di tornare a guardare a se stessi e anche fuori dalle finestre con occhi nuovi. Parliamo di questo questa domenica, nessuno è perfetta. Che ne dite? Nessuna è perfetta. Eccoci, eccoci di nuovo. Nessuna è perfetta, bentornata e buona domenica, Nicoletta Polla Mattiodi, direttore del magazine How to Spend It, che ha dedicato proprio l'ultimo numero che è in edicola da venerdì 8 maggio al tema della bellezza. Allora, buona domenica, Nicoletta. Grazie, buona domenica a te e agli ascoltatori. Hai avuto la stessa idea che abbiamo avuto noi, perché quando si ricomincia un po' anche a volersi più bene e a cercare la bellezza in se stessi, o comunque riprovarci, ma anche nelle cose che ci circondano. Bellezza che non è solo estetica, penso all'arte, alla moda, settori che dopo diciamo, la fase che abbiamo vissuto, una cosa assolutamente unica nella storia del mondo, 2/3 del mondo sono stati tenuti sotto chiave, ecco, sono settori che ricominceranno. Come la vedi tu? Ma guarda, io sentivo insieme a tutta la redazione proprio il bisogno con Autostendet di spalancare le finestre, no? Spalancare le finestre sulla bellezza che è un po' come dire, il filo conduttore sempre del giornale. Appunto, come ben dicevi tu, non bellezza in senso soltanto estetico, ma proprio come energia, come prospettiva, come reazione al pessimismo, anche come motore progettuale, come uno slancio di fiducia e in questo caso anche un po' come un balsamo, no? Su cui cominciare a costruire. Sicuramente è stato un periodo durissimo ed è stato un periodo in cui tutti noi siamo stati attaccati appunto all'informazione giorno per giorno, che però era un'informazione piena di preoccupazione, di panico, e lo è tuttora, nel senso che appunto non si fa altro che parlare delle conseguenze, no, di questa pandemia e quindi della Certo. crisi e così via. E forse appunto riuscire anche a regalare uno sguardo prospettico un po' più lungo, diciamo così, e rivendicare il ruolo della bellezza intesa come cultura, no? Come arte, ma anche proprio come qualcosa che apre gli occhi e ogni tanto li solleva, ecco, non è solo distrazione futile, credo sia proprio anche prendersi un po' cura di tutti i propri desideri, no? E questo è importante, tanto più in un momento in cui appunto tutto il resto è precluso. Per tanti di noi, e tante di noi, il sogno di questi mesi, perché sono stati mesi, no, di reclusione, è stato: beh, quanto mi piacerebbe farmi una manicure, quanto mi piacerebbe avere i capelli in ordine, quanto mi piacerebbe comprarmi un vestito. Anche perché, stando sempre in casa, poi uno cercava, sì, di tenersi un minimo in ordine, ma alla fine sempre in tuta uno cadeva, no? Se ci fosse stato ancora vivo Karl Lagerfeld si sarebbe anticipatamente suicidato, e lui considerava la tuta l'inizio della fine per l'eleganza di una donna. Ma per te, com'è stato appunto convivere con il lockdown e cercare di non essere sopraffatta? Ti vestivi, ti tenevi in tuta, ti truccavi, non ti truccavi, che facevi? Guarda, io in realtà vestirmi rigorosamente sì, perché mi sembra faccia parte appunto anche di un rito, no? Che scandisce l'inizio della giornata di lavoro e l'inizio appunto non di un uscire, ma comunque insomma di cominciare la giornata. Truccare no, sinceramente no, e l'ho vissuto in realtà come una grande libertà il fatto di non dovermi truccare, ma questo è proprio una nota personale, diciamo, perché trovo invece assolutamente non solo legittimo ma anche bello se Io lo qualcuno ha confesso, in qualche pensato giornata, sì, truccarsi per il io in piacere qualche di farlo, giornata di vedersi allo specchio in un altro modo, mi sono ecco. messa il rossetto proprio per dirmi: no, non ti devi arrendere, Ma no, stavi in casa ma col rossetto, ecco. sì. Ma ti dirò Senti. che, ti dico, lato nostro, noi abbiamo deciso per tutto il periodo di lockdown di trasformare Autostendit in un settimanale, solo digitale, ma l'idea era proprio cerchiamo di dare più notizie anche di queste notizie, no? Di cura di sé o anche appunto di begli abiti, begli oggetti per la casa, insomma quello che fa questo giornale, non solo per distrarsi, ma come dicevamo prima, anche per mettere il pensiero sul dopo, no? Su quello che poi procura piacere e quindi aiuta. E devo dire che ha avuto grande, grande riscontro, un po' perché eravamo tutti bulimici di lettura in questo periodo, no? Però tanti hanno letto questa bulimia di leggere, di consultare, di vedere tanti siti, di appunto di leggere online tante nuove edizioni come appunto quella di Autospendit come bulimia. Io penso, e quindi come ansia di vuoto, diciamo, penso che sia stato anche un po' un mantenersi vivi, no? Addirittura ci sono state delle piattaforme d'arte che hanno avuto tantissimi contatti, molti più di quelli del passato. E... Ah beh, il bisogno di bello si soddisfa anche con l'arte. Nicoletta, ma tra le cose che appunto avete inserito nell'ultimo numero di How to Spend It c'è anche la cromoterapia. Quanto un colore può essere importante per cambiare o assecondare l'umore? Ma guarda, ci sono ovviamente studi scientifici che dimostrano che appunto in realtà il colore incide sensibilmente sull'umore. Non a caso ci sono appunto situazioni in cui appunto ci sono alcuni colori appunto come l'azzurro, il verde, nelle situazioni in cui bisogna appunto essere più rilassati, e invece colori che danno delle reazioni più eccitanti e più energizzanti. Ma al di là di quello, il modo in cui noi lo indaghiamo è proprio intanto attraverso gli occhi di un pittore che è affetto, anche se mi sembra più un dono che una malattia, comunque affetto da sinestesia, e quindi è in grado, e quella strana anomalia, diciamo, del cervello per cui si vedono i colori legati ai suoni, cioè si sente un suono e lo si vede contemporaneamente a colori, e quindi attraverso appunto questa sua capacità di percepire a due sensi in pratica il mondo che lo circonda, abbiamo appunto attraversato qual è poi la potenza anche espressiva, no, dei propri sentimenti del colore. E poi certo, e poi visto che su How to Spend It c'è anche molta moda, attraverso questa lettura un po' sinestesica del colore che mette insieme tatto, appunto vista e magari anche udito, perché poi gli abiti frusciano, no, fanno rumore quando ce li si mette addosso secondo della stoffa, abbiamo anche fatto un servizio fotografico dedicato appunto alla cromoterapia e abiti monocolore che magari possono assecondare l'umore del momento. Sembrano argomenti frivoli, ma io sono fortemente convinta che appunto la superficie è tutt'altro che superficiale, che rivela molto, e no, poi, di noi. E poi c'è tutta una dimensione psicologica che ci ha accompagnato in questi mesi. Il rischio di depressione è stato presente per tanti, il senso anche di claustrofobia, l'essere chiuso tra quattro mura. Chi ha case grandi magari non lo ha avvertito, ma chi vive in una casa piccola sì. E dunque gli elementi che aiutano ad andare fuori dalla dimensione sono stati tutti, secondo me, molto utili. E l'ultima domanda che voglio chiederti è, riaprono i negozi, c'è appunto la fase 2 che in Italia è già cominciata, ma che sensazioni hai tu rispetto allo shopping? Cioè, ci sarà più voglia per chi non ha problemi di aver perso il lavoro, naturalmente, certo, più voglia di comprarsi un vestito nuovo, qualcosa di nuovo, oppure ci sarà la sensazione che arrivano tempi difficili e è meglio risparmiare? Guarda, in realtà, come sempre, credo che le risposte siano entrambe valide, nel senso che le previsioni appunto che ci sono dall'area moda sono ovviamente una ripresa lenta dei consumi. Poi ci sono indicatori strani, come appunto alcune riaperture di negozi in Cina che hanno registrato invece immediatamente un successo di vendite, come se ci fosse la voglia di rifarsi di tutto un periodo così faticoso, no, di clausura, e quindi appunto nel momento in cui finalmente si entra in un negozio si compra tanto proprio per compensare, diciamo, tutto il precedente. Sicuramente la crisi è grossa e la ripresa, tutti gli indicatori, almeno appunto nell'ambito della moda, sia appunto d'alta gamma, quindi tutta l'area del lusso, sia da parte di Confindustria Moda, tutti parlano di un ritorno al, diciamo così, al prima, allo status quo ante prima di questa crisi, neanche per l'anno prossimo, ma fra due. Quindi sarà appunto una ripresa, ma una ripresa lenta, anche se quello che in particolare sottolineava il presidente di Alta Gamma, che ho proprio intervistato recentemente, era, e questo te lo dico come nota appunto positiva, se vogliamo dire, sì, lui sostiene che proprio perché i consumi, soprattutto nell'alto di gamma, sono precipitati in maniera netta, di solito appunto di fronte a un fortissimo calo c'è anche una fortissima ripresa. Cioè la brevità di caduta corrisponde anche alla brevità di picco, e alcuni indicatori, soprattutto appunto dalla Cina, che poi è la prima che ha vissuto tutta questa situazione, sembrano andare in quella direzione. Grazie a Nicoletta Matteo, direttore del mensile How to Spend It del Sole 24 Ore. Grazie per essere stata con noi. Buona domenica. Grazie a voi. Buona domenica. A Milano si farà l'esposizione universale del 2015. Si farà. Sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. In Francia e in Irlanda è stata un successo. La vendita al pubblico dei kit in euro è possibile oggi anche in Italia. 8 differenti pezzi, da un centesimo a 2 euro. Tutti i giorni a Radio 24 raccontiamo il mondo, approfondiamo le notizie, documentiamo i fatti, ma non solo. Da oltre 20 anni produciamo trasmissioni culturali e di servizio, trasmettiamo radiodocumentari e generiamo conoscenza. Cosa sono le isole? Lo scopriremo oggi, ma partiamo ovviamente dalle risposte che ci hanno dato i nostri giovani ascoltatori. Poteva in una trasmissione dedicata all'acqua mancare lui? Leonardo da Vinci. Per sostenere il mondo della scuola, Radio 24 ha creato una sezione online dedicata al proprio archivio, a disposizione degli insegnanti e degli studenti per la didattica a distanza. Una collezione di podcast su radio24.it, aggiornati settimanalmente, con le biografie dei personaggi del Novecento, le regioni d'Italia, la scienza dell'acqua, l'esplorazione spaziale e le lezioni di inglese. Da scaricare, da ascoltare e condividere, con interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24. Da questa settimana sono disponibili anche le puntate del Gazzettino del Risorgimento, la trasmissione sulla nascita dell'Italia Unita. Radio 24 per la scuola. La passione si sente. Nessuna è perfetta. Terza parte di Nessuna è perfetta, e continuiamo a parlare di bellezza, perché in qualche quotidiano tempo fa ho letto che insieme alla riapertura dei negozi, al fatto di poter rivedere i congiunti, gli affetti stabili, insomma tutto quello che prevede il lessico burocratico che ci ha accompagnato in questi mesi, torna anche una gran voglia di rivedersi bene. E ho letto che ci sono anche molte richieste, così bizzarramente la prima cosa che uno pensa è di sottoporsi alla chirurgia estetica. Ma perché? Perché uno viene in mente, finito il lockdown, dopo 2 mesi di, diciamo, reclusione, di andare dal chirurgo estetico? È un dubbio, ed è molto legato al tema di questa domenica della bellezza. È una domanda che poniamo a Fiorella Donati, medico chirurgo specializzato in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, primario della clinica Donati. Allora, dottoressa, è vero che avete avuto alla riapertura delle vostre cliniche molte richieste di persone che si vogliono sottoporre a un trattamento di chirurgia o comunque a un trattamento estetico? Buongiorno a tutti. Sì, Maria, assolutamente vero. E anche a me ha colpito, ma molto positivamente, perché dietro questo non c'è soltanto la voglia di avere un bel fisico o un viso senza rughe, ma è un progetto di vita, cioè è come dire: io voglio vivere e progettare per un futuro di bellezza, di salute, sono viva, voglio vivere. È un progetto splendido. Come ripartire in sicurezza? In una situazione, in una sala operatoria dove comunque ci sono delle misure diverse da prima? Assolutamente sì, se mi vede adesso lavorare siamo praticamente come in un laboratorio NASA. Questo è dovuto senz'altro per rispettare il paziente, noi stessi e i miei collaboratori, ma perché comunque il distanziamento, portare le nostre mascherine. E poi, non le nascondo, abbiamo dalle borse sanificate, degli scanner all'ingresso per disinfettare i vestiti, cioè tutto quello che la tecnologia ci permette, perché è un momento importante che passerà, però in questo momento bisogna rispettarlo. Ci sono richieste di trattamenti estetici per avere una bella pelle, per togliere le rughe e per progettare, anche di chirurgia. Però onestamente io, per quanto riguarda la chirurgia, dobbiamo pensarci, non in questo momento, ma soprattutto quando c'è maggiore serenità, cioè la chirurgia estetica è un progetto splendido, come sempre, se necessario o affatto. Se è un sogno inutile, io sono la prima a fermarlo, ma se c'è la volontà di essere più belli, più sani, in salute, sì. In questo momento sono molto guardinga. Ecco, dottoressa Donati, lei consiglia alle persone che vengono da lei il trattamento estetico, diciamo, più leggero, le punturine, quelle cose questo che aiutano a distendere serenità. Il viso? Sì, con grande serenità. Questo per quanto riguarda interventi maggiori, se non sono necessari, urgenti, è meglio aspettare, mi spiego. E poi dipende dall'età del paziente, perché in questo momento un intervento molto aggressivo, molto violento, non è il caso, perché il sistema immunitario può abbassarsi, quindi si abbassa, diventa più delicato. Quindi vanno fatti gli interventi, ma in base alla salute del paziente, in base alla sua forma fisica e la necessità. Quindi, e comunque prima di un intervento si fanno tamponi ed X del torace. Però io, il mio consiglio che do è di aspettare se non c'è urgenza, tanto un mese in più o in meno saremo sempre belli, il progetto futuro. Però quello che è importante adesso è la volontà di pensare al futuro, in modo un po' scaramantico e un po' la voglia di volare di nuovo. Però attenzione, io come chirurgo dico sì, va bene alla chirurgia, ma quella di elezione la si può fare anche un po' più in là. Anche in autunno. L'ultima domanda, Fiorella Donati, che cosa lei ha riaperto da qualche giorno la sua clinica a Milano? Giorni, assolutamente. Ecco, sì. Che cosa le chiedono i clienti che sono tornati? Sono di che età? Ma i pazienti vanno, sembra assurdo, dai 20 e ho tanti ragazzi giovani, però sono ragazzi che vogliono migliorare, chiedono consiglio come comportarsi. Fino, io ho una paziente di 89 anni, una signora bellissima, sanissima, non sorrida perché le posso dire, mi dice: dottoressa, io sto bene in salute, ho voglia di vivere, finché ho salute vado avanti. Ed è anche questo un progetto di vita, perché non si può lasciar perdere, perché se lasciamo perdere, ma io non parlo di chirurgia o medicina, parlo lasciar perdere, è la fine. Comincia la depressione, le vere malattie, quindi bisogna combattere. Tutte le età, però l'età media è 40, 50, 30, 60, ecco, un'età di mezzo. Un'età di mezzo. Tutte persone che hanno voglia di vivere bene. Richieste strane non ne ho mai avute, si figuri in questo momento. Tutto nella norma. Qualche uomo si è presentato? Oh yes, tantissimi gli uomini, e questo è bello, perché a casa quelli che lavorano in remoto o altro hanno avuto idea del loro aspetto fisico, dalla pancia alle maniglie, dell'amore cosiddetto, cioè i fianchetti, e poi sono tutti ingrassati in questo, perché siamo tutti ingrassati, e quindi c'è la volontà di una ripresa, anche consigli con che tipo di sport fare, che cosa fare per il futuro, non è solo chirurgia, è anche uno stile di vita che ti chiedono. Credo che sarà, come dire, un argomento di chiacchiere sotto l'ombrellone quest'estate, a distanza naturalmente, magari col megafono da un ombrellone all'altro. Grazie a Fiorella Donati. Ottimisti. Grazie a voi tutti e buona domenica. Siamo ottimisti, grazie, buona domenica. Quando arriva la cassa integrazione, dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24. in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a duedidenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno e sapete che i vostri messaggi all'828 12 12 sono per noi uno spunto, un incoraggiamento e è anche il modo di restare in contatto con quelli che sono i vostri interessi. Quindi raccontateci i vostri buoni propositi per l'estate, per prendervi cura di voi. Avete sentito che la chirurga estetica Fiorella Donati racconta di uomini e donne che in questi primi giorni in cui ha riaperto la sua clinica si sono presentati. Lei dice: non chirurgia estetica più impegnativa, non è questo il momento, ma piccole cose che ci rendano più contenti, più sicuri di noi, perché no? E sui messaggi mi fa molto piacere ascoltare con voi questo che è arrivato da Giulia. Sentite. Buongiorno Maria. Ha butto un po' a sorridere per non piangere, effettivamente faccio parte di quelle tante mamme che a causa delle scuole chiuse ovviamente non è potuta rientrare al lavoro. E ti dirò, considerato il mio aspetto fisico dopo 2 mesi di reclusione e comunque di assenza di un parrucchiere, il fatto di avere qualche settimana in più per rendermi presentabile non è che mi dispiaccia. Un saluto e grazie mille per la tua compagnia. Beh Giulia, dai, adesso i parrucchieri riaprono, si può ricominciare anche a fare un po' di sport, quindi siamo ottimisti, come diceva prima il chirurgo Fiorella Donati, ottimismo e ovviamente tutto quello che vi passa per la testa, fatecelo sapere, 828 12 12, la casella di messaggi vocali di Nessuna è Perfetta è a vostra disposizione. Mentre a questo punto abbiamo visto il bisogno di bellezza, ce l'ha raccontato Nicoletta Polla Mattiolla, direttore di How to Spend It, abbiamo parlato appunto con lei anche della voglia di tornare magari a comprarsi un vestito, perché no, dopo mesi in cui abbiamo messo sempre le stesse cose, tanto eravamo in casa, abbiamo parlato della cosa curiosa, no? Che appena una clinica chirurgica riapre c'è subito qualcuno che ha voglia di farsi un piccolo intervento o una punturina, questo sempre nel segno di prendersi cura di sé dopo mesi in cui magari ci siamo lasciati un po' andare, ma proprio perché non dobbiamo essere alla fine, vedere un bilancio negativo di questi 2 mesi, torna Simona Salvini, che all'inizio del lockdown ci aveva dato qualche consiglio per convivere meglio con quel periodo che, diciamolo, non è stato proprio sempre così rilassante. Adesso magari avremo nostalgia del lockdown, ma mentre c'eravamo dentro, certe sere, almeno per me, andare a letto e ripensare che come nel giorno della marmotta il giorno successivo sarebbe stato uguale a quello di prima, con gli stessi gesti, le stesse cose, perché tanto eravamo confinati in una casa, e beh, insomma, non è stato proprio leggerissimo. E dunque buona domenica Simona Salvini, ci eravamo lasciate con i consigli per utilizzare al meglio il tempo in cui eravamo costretti a rimanere in casa, non uscire, e adesso però da casa si esce e vorremmo, come dire, uscire contente e contenti di noi stessi. Come tornare in forma dopo questi mesi di lockdown? Allora, intanto bisogna sapere se sono stati fatti tutti i compitini a casa che avevamo suggerito l'ultima volta, già quello è un buon partire. In ogni caso, come col solito metodo e disciplina, sempre crema due volte al giorno sul corpo, cura della pelle, un make-up non eccessivo. Tutto parte da lì, perché questi due mesi che siamo stati praticamente segregati in casa, abbiamo dovuto fare i conti con tanti fattori, fattori come la mancanza di luce naturale, fattore come l'inquinamento, tante volte l'inquinamento domestico è addirittura 5 volte più alto rispetto a quello all'aria aperta, e sono tutte cose che influenzano in modo evidente la nostra pelle, la fanno apparire. Ma una domanda: in queste settimane in cui appunto si usciva giusto mezz'ora per fare la spesa, insomma il giro dell'isolato, poi la sera a me è capitato di struccarmi e di vedere che avevo comunque la pelle sporca. E mi chiedevo, ma scusa, sono rimasta in casa tutto il giorno, come mai? Per questo, perché l'inquinamento domestico uno lo sottovaluta tanto. Poi adesso incominciamo a tenere le finestre aperte, però quando è incominciato a marzo faceva ancora freddo, e quindi il fumo diretto, indiretto, anche il fumo della cucina crea inquinamento, e quindi quando parlavamo di una corretta pulizia, che sono parole ovvie, diciamo così, in tempo di pace, in questa situazione erano ancora più necessarie, per evitare proprio un colorito spento, un colorito grigio. Tanti lamentano questo, tanti lamentano delle reazioni della pelle strane che non avevano mai visto, come rossori, come secchezza anche a zone, oppure anche dei brufoli. Esattamente, stavo per dire. A me sono tornati i brufoli come quando avevo 15 anni. Sì, perché è proprio sintomo di questo stress a cui la pelle deve, oppure anche occhiaie, tante, anche occhi gonfi, occhiaie. Quindi una routine rigorosa e su misura è molto importante. O altra cosa che è bene fare anche adesso, è vero che usciamo un pochino di più, però e quindi fuori c'è il sole, ricordiamoci di proteggerci, ma non solo come facciamo a luglio, ad agosto, su quello che sembra un miraggio, una spiaggia oggi come oggi, ma anche in casa con la luce artificiale. Sono tutti fattori che veramente uno sottovaluta, perché siamo abituati a un altro tipo di vita, però veramente creano stress alla pelle, e la pelle reagisce con queste reazioni visibili semplicemente perché è un organo esterno, noi possiamo vedere con i nostri occhi, mentre non possiamo vedere la sofferenza di un fegato, del cuore, eccetera, la pelle sì. E quindi in questo una routine appunto rigorosa, con metodo, quello che abbiamo sempre detto, è sicuramente vincente. Probabilmente non è la soluzione di tutto, però sicuramente si parte davvero avvantaggiati. Poi aiuta. In queste settimane sì. molte delle nostre ascoltatrici, non tutte ma molte sì, hanno lavorato da remoto, il che ha significato spesso fare tante riunioni online, su Zoom, sulle piattaforme, e ogni tanto l'immagine che lo schermo del computer ci restituiva non era proprio incoraggiante. Secondo te, siccome di lavoro da remoto si parlerà ancora e per molti rimarrà una soluzione semidefinitiva, bisogna presentarsi truccate alle riunioni via Zoom? Come tantissimi, anch'io ho lavorato così. Ho sempre cercato personalmente di mantenere un mio rigore. Evito di presentarmi truccata come se dovessi andare a cantare alla prima della Scala, perché sarei ridicola. Però curata, in ordine sì. La pelle la curo sempre, e quindi anche una leggerissima base uniformante su una pelle curata da un'area omogenea e di persona, ripeto, curata. ho sempre messo mascara perché ti dà un occhio più aperto, uno sguardo più vivo, senza dare un eccesso di trucco, e ho sempre messo un velo di rossetto perché tu sai che io lo porto sempre, quindi è difficile, sì, vedermi senza, e sarebbe strano. Quindi questo per dire, ognuno ha il proprio DNA di immagine, chiamiamolo così, non stravolgerlo e non però ricordarsi, cioè mantenerlo, ma ricordandosi un minimo di basso profilo perché sia in casa, perché sennò stonerebbe, nessuno ci crede a una con uno smokey eye la mattina alle 9 in casa, no, con in quarantena, ecco, sarebbe poco credibile e probabilmente anche un po' grottesco. Simona, uno dei sogni ricorrenti di questi mesi, di queste settimane, di confinement, come dicono i francesi, o di lockdown, come dicono gli inglesi, è stato: Dio, cosa darei per avere una manicure ben fatta, oppure cosa darei per il parrucchiere. Ora, dal parrucchiere si tornerà con delle situazioni evidentemente di garanzia sanitaria che dovranno essere rispettate da tutti, dai clienti e dai proprietari dei saloni. Ma secondo te in queste settimane cosa ha sofferto di più? La cura dei capelli, lasciati un po' così alla selvaggia, o la cura del corpo, appesantito da cioccolata, il bicchiere di vino in più, la pasta che magari uno normalmente non avrebbe fatto perché non aveva tempo di cucinare, invece in casa c'è stato tanto tempo per cucinare. Sì, ma dipende dalle persone, cioè dipende, sai, dal punto di partenza. Certo, chi ha i capelli colorati artificialmente e non è capace di trovare delle soluzioni, è sicuramente un bel problema, oltre ad essere una brutta immagine. Io veramente faccio tornare sempre tutto al singolo, quanto il soggetto veramente tiene alla cura della persona, ossia volere e potere, e le soluzioni ci sono. I parrucchieri erano chiusi per tutti, però perché vedi persone, anche per quel poco che si esce, più in ordine e altre completamente lasciate andare? È proprio una questione di testa, perché uno smalto leggero, anche se non hai le mani perfette, fa una differenza, senza dover mettere un rosso scarlatto, non lo so, perché non è che tutte sono esperte nel metterlo, però io se lo faccio un pasticcio. Sì, anch'io, però un delicato lattiginoso, anche con la mano sinistra, uno un pochino riesce, ha un'area un po' più curata. I capelli, se sono sempre puliti, se sono curati, perché si vede se uno li lava e basta, oppure se uno li cura, vale a dire maschere, vale a dire impacchi. Hanno una morbidezza, una luce differente, non hanno la piega, va bene. Io per esempio vado a dormire tenendomeli attorcigliati in uno chignon e la mattina mi sveglio più che in ordine, però li ho lunghi, capelli corti è già più difficile, però è anche vero che i capelli corti sono già in ordine solitamente di loro, quindi è proprio avere in mente che comunque, come dice Simona Salvini, un po' di disciplina per la bellezza aiuta. Sì, un po' di disciplina aiuta. Per esempio, una cosa a cui non ho veramente mai rinunciato in questo periodo è mettermi un pochino di profumo, perché lo fai per te, ecco, lo fai per te. Questo, io qui volevo arrivare, qualunque cosa tu faccia lo fai per te, e si vede chi veramente lo fa per sé e è riuscito a essere, a rimanere più o meno in ordine, non dico come se fosse, ecco, in tempi normali, però questo si nota, perché sennò si vede vorrei saperlo dalle nostre ascoltatrici 828 12 12, fatecelo sapere. Quando qualche settimana fa parlarmo di come reggere a questa esperienza che era assolutamente nuova per tutti noi, rimanere chiusi in casa per settimane. Due terzi del mondo è rimasto chiuso in casa per settimane, non era mai successo nella storia dell'umanità. Ecco, e avevamo fatto proprio una puntata su come reggere a questa situazione sconosciuta e come reggere psicologicamente anche volendosi un po' bene, occupando il tempo anche Esattamente. facendosi un impacco ai capelli. E mi ricordo che proprio Simona Salvini ci aveva suggerito un po' di profumo, fatelo per voi. Io ho seguito il suggerimento e me lo sono messo ogni mattina e mi ha fatto bene. È Ma voi vero che fa bene. che avete fatto la stessa cosa? Vi siete un po' sprofumacchiate pure voi? Fatecelo sapere, 828 12 12 e fateci sapere che cosa avete fatto per voi in queste settimane di reclusione e come pensate di affrontare adesso, diciamo, la liberazione. Grazie, grazie Simona Salvini, buona domenica e grazie per essere stata con noi. Se Grazie a voi. volete, noi ci ritroviamo come sempre dal lunedì al venerdì alle 8 e un quarto, 8 e 20 a 24 mattino, sempre su Radio 24 con Simone Spezia. E comunque ci ritroviamo come sempre domenica alle 10 con Nessuno è Perfetta. Buona domenica, ciao!